Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia, benvenuti dunque all'appuntamento con l'Europa. Oggi un approfondimento dedicato al fisco, una questione se vogliamo centrale per il finanziamento del sistema, per questioni di eguaglianza, ma soprattutto appunto per questioni di bilancio. L'approfondimento di Sergio Nava. Europa e fiscalità, due mondi che si sono spesso incrociati in questi anni senza mai veramente riuscire a raggiungere una piena armonizzazione e integrazione. Oggi vi raccontiamo cosa fa Bruxelles sia per integrare le politiche fiscali dei 28 Paesi membri, sia soprattutto per combattere la crescente e ormai insopportabile evasione fiscale. Partiamo con il primo punto. L'eurodeputata Cristiana Muscardini, vicepresidente della Commissione Commercio Internazionale, si dichiara favorevole a una politica fiscale comune in Europa. Sentiamola al microfono di Laura Bettini. Io la trovo assolutamente necessaria e se eventualmente, perché i tempi rischiano di essere veramente lunghissimi e l'opposizione di alcuni stati talmente forte da rendere i tempi biblici, io parlerei almeno di armonizzazione. I paesi che hanno un sistema fiscale meno pesante, che hanno IVA più bassa, rischiano di assumere su di loro tutto che è l'introito dell'importazione e che dopo, quando il prodotto è entrato in quel paese, viaggia normalmente all'interno dell'Unione Europea senza problemi, con la conseguenza evidente nel caso dell'Italia che i nostri cittadini sono i più tassati, ma di conseguenza anche, come dire, i meno favoriti rispetto al mercato interno. Invece sul fronte dell'evasione fiscale, proprio il Parlamento europeo ha presentato quest'anno un piano di contrasto che punta a ridurre alla metà, entro il 2020, i 1.000 miliardi di euro che vengono nascosti ogni anno al fisco nei paesi dell'Unione. Al delicato tema è stato dedicato anche un vertice europeo a maggio, nel quale si sono fatti timidi passi in avanti con la decisione di rivedere entro fine 2013 la direttiva sulla tassazione dei risparmi, così da introdurre una prima piattaforma di scambio delle informazioni legate ai conti bancari. Il denaro che rientrerà dalla lotta all'evasione sarà utilizzato anche per progetti a sostegno dell'occupazione giovanile. Così ai nostri microfoni Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea. Sentiamo. Mi rendo conto della difficoltà per alcuni paesi a voler rendere più trasparenti i sistemi informativi. Però è indispensabile fare questo se si vuole veramente colpire a fondo l'evasione fiscale, se si vuole impedire che i paradisi fiscali siano ancora uno strumento negativo che va a danno dei cittadini. I soldi recuperati dall'evasione fiscale e dai paradisi fiscali possono diventare anche un po' un tesoretto, se vogliamo, per andare a aggredire un altro problema enorme, che è quello della disoccupazione giovanile, che sta diventando veramente un bubbone in Europa. Si possono collegare in qualche modo le due problematiche? Più fondi ci sono nelle casse europee, più si possono utilizzare per la politica della crescita. Noi abbiamo già trovato 6 miliardi di euro nel bilancio comunitario contro la disoccupazione giovanile, e questo certamente è un colpo che noi vogliamo assestare alla crisi. E invece scettico sulla possibilità di raggiungere gli obiettivi previsti dall'Europarlamento, l'eurodeputato PD Sergio Cofferati. Io penso che non ci saranno decisioni cogenti ed efficaci, purtroppo. Io credo che lo scambio automatico di informazioni si arriverà, questo però non elimina l'ipocrisia. Credo però anche che per sollecitare con vigore e soprattutto con credibilità l'Europa a fare le scelte necessarie bisogna essere a posto con se stessi. I paesi devono presentarsi qui con ipotesi di intervento relativi alla loro evasione fiscale. Ad esempio in Italia è molto semplice, se lo si volesse individuare gli evasori, basta sovrapporre la denuncia dei redditi a quella delle proprietà acclarate. Dunque, se fatto altre volte in passato, i risultati sono stati visibili e addirittura in qualche caso eclatanti. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento con Europa 24 è per domani intorno alle 13:10. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.